guardando. Avanti. Lo guro che c'ha Bernacchia. Un attimino, che sono al telefono. Va avanti, Roberto. Roberto, ci sei? Sì, sono tornato. Antonio, mi senti? Scappa che ti sento. Come ti sembra la radio? Un po' barattolosa, no? Un po' così, però già va bene. Guarda questo video. Questo apparecchio. Ma c'ha anche l'attacco PL, c'ha? Un bestione, pesanti, ma pesanti, da mettere la spalla e sposare anche in base. Anche l'attacco PL c'ha? Sì, tutte quelle militari, quasi tutte le militari sono spesso un attacco a PL, soprattutto questa da spalla, e le spalleggiabili, che sono tutte così. Che roba, è particolare però, che succede? C'ha quell'affare che si gira. Ho detto che se non sai com'è, non mi comprendi nulla. Ci vuole un minimo adattamento per usarle. Bisogna sapere le basi, anche perché quando c'è la sua antenna che è a nastro, la devi accordare. Quindi devi sapere perfettamente l'utilizzo. Cosa c'ha come microfono? La cornetta? Sì, microtelefono. C'è la cornetta, microtelefono, col filo che va all'apparato radio. C'ha due ingressi, uno per la cornetta e l'altro per eventuale trasmissione dati. Che strano che è. È robustissima. È molto robusta. Se ti chiamo avrai quanto cacchio le vuoi per questa radio, c'è un'ora robusta contro robusta, ma ancora non ho mai chiamato però. Ti devo chiamare, se vuoi che ti chiamo. Allora, chiamami, così mi dici, mi dai delle coordinate, e in base alle coordinate che mi dai ti dico cosa posso fare, no? Ma guarda che con questa parte delle coordinate mi viene anche bene. Se c'è l'artiglieria pronta, sono 40 gradi est, anzi nord, scusa, e 8 e 33 est, punta e fai fuoco. Ah, è vero che c'è anche la baionetta col MAB, quei fucili che si usava un tempo. Roberto, ce n'è il segnale stasera, ce n'è? Se ha voglia di venire a segnare, no? Sono con l'RM Italy attaccato il 7574. Già ce n'è, già ce n'è. Vabbè, terza marcia, ci sono altre tre marce da inserire. Salva. Bello, quello lì. Ehi, vabbè, intanto lo attacchiamo. Ho messo l'alimentatore a parte, sentirai anche la ventola, perché no, se no non ce la fa, capito? Non ce n'è alimentazione qua. Adesso sto aspettando l'altro che l'ho prestato, appena me lo restituisco, quello a 220. Attacchiamo quello lì, dai. Va bene, va bene. Bene ragazzi, io però mi allontano dalla radio, lascio tutto acceso e ci sentiamo dopo, magari dai, che mi sposto un po' in cucina, vediamo cosa c'è da preparare stanotte, se c'è bisogno di me, se non c'è bisogno me ne rientro qua, ok? Gianfra, chiamami, già c'ho il telefono a portata di mano, così mi dai qualche indizio e poi ti faccio sapere, ok? Ciao a tutti, per il momento a dopo. Ok, ti sto chiamando, tanto anch'io tra poco devo chiudere perché non mi ero accorto che erano già le 8 meno 10, anche di meno. Ciao a tu, buona, ancora auguri e buona serata, alle prossime, anch'io sto chiudendo e ci sentiamo eventualmente domani. Sì, ciao ciao, Claudio, tra poco ti chiamo. E capa, ciao, ci risentiamo alle prossimine. Mazza e tieni fuori, vabbè, buon Natale, su giù. Hola, hola, chi è avanti? Hola, attenzione. Avanti, chi chi è? Oh, da questa parte è Mandolino. K, salutoni, Mandolino, così ha detto. Sei molto simpatico. Mandarino, non Mandolino. Ah, Mandolino, sì. Scusami, non ho capito molto bene. Mandarino, Mandarino. Mandolino, così è. Mandarino. K. Da dove moduli? Ricopia se mi hai capito. Dimmi. Sì, tutto con rumore di alternata, Mandarancio. Sempre Mandarino. Vabbè, io ti chiamo Mandarancio, va bene. Mandarancio. Ah, grazie, va bene là, va bene comunque. Dimmi un grazie, Mandarino o Mandarancio? Mandarancio, perché è tutto c'è rumore di alternata sotto, un casino. Dai, Mandarino, poi di fella, ecla. Non lo so, sei di quelli del Covid, stanno entrando adesso. Attento, Mandarino, mi ascolti? Figlia, ti sento, ma non capisco come mai esco male, dai, insomma. Ma lo sento bene, cra. Stai parlando in due, chi è l'altro? Ti ho detto che c'è un rumore di alternata sotto. Ah, buona, sarà sottoalimentato. Cappa, da che zona stai parlando? Non c'è più Mandarino. No, sono sempre all'ascolto, non avevo capito se chiedevi me. Comunque sono il vero Caffeller. Ma esce abbastanza bene, esce. Allora c'è un'antenna piccola. No, guarda, non ho problemi a tirarti fuori. Ma guarda, c'ho un'antenna del cavolo ed è addirittura non è, penso che non sia messa neanche bene, perché è messa nella spalletta della finestra. Già, magari c'è avere qualche cosa, però già. Già ti sento abbastanza bene qua, dai. Tu bene mi senti in quella zona? Ho capito, benissimo ti sento, ma l'amico, il collega, non so chi fosse, comunque mi stava dicendo che stavo uscendo male. C'è un pochettino di alternatina, ma... è passabile, dai. Ho capito, dai. Per le feste già va bene. Caffa. Ma non sarà quell'antennino che ho visto una volta, no, in quella zona? Vicino al panificio, lì, No. No, io sono di fronte ai carabinieri, non c'è panificio qua. Allora all'altra parte. Ho capito. Ci sono le popolari, dai. Cosa? Senti, in che zona sei tu? In zona qua di Corso Vico sono. Ah, ho capito. E per essere con un antennino mi arrivi abbastanza. Non ho problemi, dai. E c'è un antennino proprio del cavolo, perché non so se le conosci, sarebbe tipo un bastone di scopa, capito? Aggiungo un friso, vai tipo una storm, magari anche quella della Sirio, così è. Non lo so, questa io l'ho presa molto tempo fa alla GBC ed è... ma guarda, ripeto, come un bastone di scopa un po' più grosso ed è circa un metro. C'è la storm 27, c'hai. Mandarino, ma tu non sei quello che abbiamo fatto le prove noi? Sono Claudio Sparviero. Non ti ho capito, ripeti, scusa. Ho detto, non sei quello di via Rockefeller che c'ha l'antenna, ti ho detto di spostarla dall'angolo della finestra. Sì, bravissimo, sì, sono sempre io, sempre Mandarino sono. Però siccome non sono sempre attaccato all'apparecchio io, perciò non è che me ne interessa più di tanto, dai. Poi con calma vedrò più avanti se riesco, se trovo un sistema migliore, capito? Te l'ho detto quello devi fare, prendi una di quelle staffe da parabola, ne metti quattro tascelli nella battuta della finestra e fai uscire l'antenna fuori, non devi fare altro, una grandissima fesseria, 10 minuti di lavoro. Sì, ma io adesso in questo periodo non è che ne abbia molto tempo, capito? Più avanti adesso vediamo. Va bene, dai, ok. Io sono sempre qua a Carbonate, ci siamo già sentiti altre volte. Va bene, allora ti lascio in compagnia di Mandarino, mi pare, come che ti chiami di nome? Sempre Mario. Ascolta, io tempo fa, non so se 2 mesi, ero in contatto con Roberto, non so se ce l'hai presente, abitualmente me lo saluti. Ah, certo, te lo saluto, sì Mario, sì, mi ricordo Mario, sì. Ok, molto bene. Ti lascio in compagnia di Antonio, io mi devo spostare in cucina. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Ok, Antonio, te il cambio, eh. e io ti ringrazio e auguri comunque, a presto, ciao ciao. Ciao Mario, tanti auguri. Tappa. Comunque esce molto bene, non so che tipo di apparecchio hai, ma esce molto molto molto bene, esce. Allora, io ho un Intec M340S. Va bene di modulazione. Tanto, il barattino tipo quello che ho il 3104F, sì, io guardo quello che ho io, quello base è piccolino. Eia. A 220 va, c'è il tastino rosso, a 220 lo puoi fare andare anche a 12, sì. E ce l'ho anche io quello, io adesso sto usando un Midland Vintage, modello 78574, con il microfono a tavolo, però c'ho anche quello, semmai se ci siano poi te lo faccio sentire. E escono molto bene quelle radio, vanno molto molto bene, sì. E quello che c'ha l'eco, 40 canali, insomma tutti i tastini, un sacco di cosettine c'ha. Sì, posso dire che non mi sono mai lamentato, dai. E stai uscendo col microfono normale? Il microfono, il microfono è un utilizzo da 13. Vabbè, però come ti ha detto Antonio, io ti ricevo molto bene, stai uscendo molto bene. Va bene, Anto, dai, ti lascio in sua compagnia, io mi allontano in cucina, ci sentiamo dopo, ciao. No, claro, dai, ci sentiamo. Comunque, quella lì ce l'ho avuto anche io, qui su Roccio di Coboro. Riusciva a farlo uscire molto molto molto bene, riusciva a farlo uscire. Poi quando sono venuto qua mi sono messo l'antenna grande e le cose sono cambiate. Ho capito anche, però a volte sicuramente dipende anche la zona comunque dove la posizioni questa antenna, perché anche se un'antenna del cavolo è posizionata bene magari c'hai delle buone uscite. Sono rientrato comunque. Sì, Robè. Avanti, Robè. Sì, ciao, ho sentito di sfuggita la Mandarino, ben sentito. Ciao Antonio, sono rientrato, dai. Ok, avanti Mandarino, per i saluti e tanti auguri che non abbiamo avuto modo di farceli. Eia, grazie, ricambiati. Sempre in solita posizione se Mandarino. Rockefeller, via Rockefeller, quella donna lì mi avevi detto. Eh sì, purtroppo sì, io sono povero e rimango sempre qua. No, già stai ascoltando bene, ti ascolto 9 più 10, radio 5. E Antonio, avanti a te. Pure qua non è male come segnale. Non so lui come ci ascolta, però quanto segnalago. Però da, va abbastanza bene. Ho attento l'amico, io ti sento benissimo entrambi e mi risulta che uscite fortissimo e comunque vi copio anche bene. Zappa, quanto segna l'ago? Ma guarda, l'ago qua a me mi sale al massimo. Non mi viene se a fondo scalano. Non lo so, guarda, no, io posso dire soltanto che l'ago sale, cioè il segno il 9, dai, non ti posso dire di più. Cappa, dai, già va bene. Tanto arrivi bene da tutte le parti, adesso non hai problemi. I problemi li hai risolti cambiando posizione di abitazione e soprattutto di antenna. Io sono più piccolino come al solito. Dai, siamo abbastanza vicini con Mandarino. Ricordami il nome, com'era Mandarino, il tuo nome normale? Sempre Mario. No, dico, noi siamo abbastanza vicini, per cui a me dovresti ascoltare lo stesso più che bene. Non ti credi che sia sei lontano, Burue, come? In quella zona ce l'ho favorevole. Vabbè, ma c'è qualche palazzo davanti, io ostacoli, non io verso quella zona, sono completamente aperto. No, io verso quella zona di via l'Italia, zona via Rockefeller, sono tutto aperto. Infatti accoso a Daniele, quando abbiamo provato che lui è zona via l'Italia, le arrivo quasi a fondo scala, cioè il segnale più forte di tutti, anche da Antonio Gronde arrivo fortissimo. No, non lo so che arrivi bene, ci mancherebbe, però io ce l'ho di fronte, diciamo, probabilmente le antenne si vedono, io ce l'ho linea d'aria, faremo penso un chilometro neanche. Ok, avanti a te Mario. Ho capito, vabbè, niente, io come posso comunque adesso vedrò di fare qualche cambiamento. Lì ci vuole una pedisvella. Ci vuole una pedisvella, ho capito. E allora, un coso, un... come si chiama? Vabbè, aiutami. Cosa hai detto quello? Mi sentite? Ah, ti sentiamo. Cosa volete di dire, Luca? Boh, non mi ricordo. Partire sull'antenna, ma le staffe. Cacchio, fammi di quella. Eia, mi senti la, Mario, mi senti? Eia, ti sento. Io pensavo di mettere una manovella anziché una pedisvella, dai. Se munimo la manovella e la pedisvella, tutte e due. E l'acceleratore puro. Qui sta la manetta. Montemara, vendicoso e grandine sta facendo. Vabbè che sono all'interno ma non sento niente qua. Io lo sento bene pure perché c'è lucernaio qua. Sbatte quindi, ci sei. L'altro giorno che ha fatto, pare domenica scorsa ha fatto una bella passata, o sabato, non mi ricordo se era, forse sabato, ha fatto una bella passata, sabato forse, dai. Già peccato in occhio, già giocare un gaggio, rompo me, rompo mangio, rompo coi fame, come se ne entrata. Io ho mangiato esageratamente, pure troppo, adesso magari più tardi mi verrà qualcosa da mangiare, però in questo momento non ci sta più niente. Ho mangiato ieri in abbondanza, ieri notte, e a pranzo mi sono fatto a porco, come si dice. Ci sono mangi che ci dici. Allora, pioggia fino alle 23, la smetta, poi torna pioggia. Mario, dalle parti tue i bombardamenti ce n'erano ieri notte? Mario, qualcuno esplodeva. Ma cacchio, sembrava una guerra mondiale, neanche a Capodanno, giù mai. Luca, da te com'era la discussione bombardamenti? Qua sono a 25, mamma mia, qui c'era la guerra qua. Io ho capito, cioè vanno a controllare se c'è la mascherina e cosa, ma sai la gente che c'era in giro che mi hanno detto ieri notte, scoppiando e facendo. Anche qua, a voci, fuori alle 2 del mattino, cantando, va, a Natale si può dare di più, si può fare, alle 2 di Manzano, forse anche alle 3, casinone l'hanno fatto, polizia qua non le scende. Già lo so, non li conviene molte volte, preferiscono stare in ambienti più tranquilli, dai. Però trovi qualcuno, qualche vigile urbano vuol fare il protagonista, se ti vede con la mascherina ti fate un sacco di storie, vai a controllare quelli che effettivamente fanno dei crimini, no? Per una mascherina a cagatta, se non c'è nessuno tutti zinni, tanto. Purtroppo non è così, è che roba, hanno come si dice, loro sono messi apposta per queste cose qua, per controllare, sono pagati e sono costretti a fare quello che gli dicono. Ma non vi para né chi, non ti preoccupare. No, ma io Luca dico il fatto, quando ci sono spacciatori, gente all'opera, circolando male, zingari e cose del genere, non le vedi mai, cacchio, ma è possibile non vedi, poi ti trovi quello che c'è senza mascherina, fanno un macello e ci buro in coso, in video ti fanno molte volte per una mascherina cagata, tipo che tu hai ammazzato qualcuno, e beh. Cosa vuoi fare? Fatene così, fatene. Per carità. Lo so, purtroppo io do sempre ragione alle forze dell'ordine, però molte volte dico anche loro sono costretti a fare queste cose perché sono comandati, però in altre occasioni che ci sono cose molto più gravi, non li vedi, devi per forza chiamarli perché non c'è nessuno, dici ma è possibile non ti accorgi che in quell'ambiente lì è tutto pieno di spacciatori o prostituzione o gente ladri o eccetera eccetera, e lì non ci passano. Chissà Capodanno ne ha casino, ma stesse, perché sono tutti in casa, quindi fanno un bordello, faranno, iuia. Ehi, ok. Vai Mario, tocca a te, avanti il nuovo quel canale 10. Ehi, ci sono. Ma ascolta, stavo dicendo, ma ieri sentivo di brutto fuoco d'artificio che sparavano in continuazione, però, Mi sembra che non so se era la zona del monte o luna e sole, non lo so, dimmi se mi sai dire qualcosa. Mi sento un attimo, Ok, Luca. No, ma li hanno fatti, io non li ho visti, però li ho sentiti molto vicino qua a Carmonazzi, dice, stava dicendo Claudio, nella piazzetta di Carmonazzi vicino alla farmacia, di lì ha nevato la guerra mondiale, perché li sentivo proprio vicini, non riuscivo a capire da che parte venivano, però era un po' fuoco d'artificio. Murinocchi era una guerra vera. Io ciò che facendo c'è tutto un paio di tirate e poi basta. Aspetta, ti hai parlato in due, cosa ha detto Mario? Ho detto che li ho sentiti di brutto, che sparavano in continuazione. Sì, prima hanno entrato qua verso mezzanotte meno un quarto e poi hanno proseguito sino a luna, io li ho sentiti, magari c'era qualche pausa, poi ripartivano, eccetera eccetera, ma giù dove c'è Antonio al centro storico sicuramente di lì, cacchio, saranno molto più forti, oppure a Latte Dolce sicuramente se ne sono sentiti di più che da questa parte. Latte Dolce, a Sant'Amore di Pisa, lì c'era guerra, fumo. Anni, forse a Capodanno, no, non vedi la nebbia proprio, talmente era la sparatoria. Lo so, poi di lì cacchio, non è che badano a spese, dico, quando devono fare rumore, non hanno i petardini, di lì tirano cose molto più potenti. E gandelotti, tutto tirano. Cipolle, di chi si cose trattano. Ogni tanto qualcuno all'ospedale va a finire, anche se c'è da dire, in questi ultimi anni i butti, molti, forse non neanche l'anno scorso, c'è qualcuno amputato, cose così, ma ti ricordi tanti anni fa, sino a 7-8 anni fa, ogni anno ne morivano 5-6 per volta, a Napoli la maggior parte, o zone vicine, anche c'è un'epoca di gente che aveva perso l'occhio, che ha perso una mano, dita, eccetera, eccetera. Adesso, l'anno scorso credo che non ci sia stato nessun morto, almeno credo. Che sono degli imbecilli, tu quello l'accendi, lo butti e basta, è finito il discorso. No, ma poi non sono manco intelligente un po' di volte. Ma dico, ma forse non è acceso bene, allontana, di lascia passare un po' di tempo e poi ne falle. Non è che dopo 10 secondi che non è scoppiato, vai e lo prendi in mano e te ne traccia le mani. Sempre così succedono pure. Cartine erano pericolose, quelli con le cartine, quelle con la miccia no, quelle con le cartine sono molto pericolose. Avanti Mario. Ehi, è vero, bisogna dare un po' d'attenzione. Comunque ne ho sentito anche qualcuno stasera che non erano petardini, ma erano bombe però, proprio fortissimi. Sì, ma poi ogni tanto qualcuno per farsi sentire, per ricordarci che c'è il periodo delle feste, ne tira qualche candelotto. Aspetta. Cos'è tu? Quelle piacciono anche a me, piacciono. Guarda, io, cioè mio cognato, che lui aveva la cartoleria, parlo di anni fa, noi andavamo apposta in casa sua perché lui ne portava di tutto di più, ma cose allucinanti, poi non parliamo di questo amico che le portava da Napoli, andavamo di lì a Capodanno, quello che aveva, però io sempre lontano, cacchio, lui era col padre, ci mettevano anche in campagna, ma cacchio, roba di bombe che c'era, però io sempre lontano, ho detto, non mi fido, io ho paura della polvere da sparo, finché c'è un petardino, ma quando usi cose grosse, anche il raudi, te ne stacca la mano. Cosa, hanno idrato io, mini cicciolino. Io sono di quel parere lì, sono anche io. Io idrato chi si proprio i candelotti idrato. Se devo comprare uso quelli, se no mi scoppio. Vabbè, ma io dico anche un raudo che non è una bomba. Se te lo tieni in mano te ne stacca le dita quello. Lo so già. Figurati se usi cose un pochettino più grosse, io ho visto una volta, mi ha portato questo amico, mamma mia, ci siamo cagati sotto, erano di questi razzi di coso che li usavano negli aeroporti, ne aveva portato uno, è stato un metro di altezza, si metteva in terra, noi siamo andati a provarlo su verso il quadrato in un angolo chiuso, un coso chiuso in un cortile, l'abbiamo attaccato in un pezzo di coso, questo anziché partire in alto è partito in orizzontale, è iniziato a sbattere. parte, cioè dal muro, da tutte le parti, ci siamo coricati in terra, ci siamo cagati sotto. È stato roba di 20-30 secondi girando come un fuetto, una cosa non riusciva a seguirlo con gli occhi, perché sbatteva da tutte le parti del muro. Poi alla fine è esploso, sembrava una bomba. Eppure ha provato un altro, sono andati in piazza del segno, lo stesso ne aveva portato una cosa spaventosa, ha fatto questo rumore tipo, c'è presente le mine, quei colpi, vibrazione, no rumore, c'era una vibrazione tipo quando scoppia una mina, una cosa mai vista, che ci siamo scappati, ho detto ma non ci arrestano. Ma a Napoli, se tu vai a Napoli, c'è gente che ne è caduto il terrazzino in terra con quei palloni di Maradona, quelle specie di palle, tipo pallone di calcio, li riempiono di esplosivo, il polvere da sparo, a uno, più di uno ne è caduto il terrazzino, ne hanno buttato in terra il terrazzino. A Napoli, cioè, sono senza testa per queste cose, è una filosofia di loro di fare queste cose, qua siamo un po' tranquilli. Io sono andato 2 anni fa fuori dall'Italia a un paese dell'est, mi sono spaventato, io non ho mai visto di cose del genere, ma tranquilli, ma anche i poliziotti, ho visto il video dei poliziotti sparando bengala e coso dentro in caserma, nel cortile a Capodanno, ho detto, se cioè, vai in Italia ti arrestano immediatamente, loro poliziotti? Ah, loro sono così, no. Ma i sigosi sono forti, devi stare attento, devi stare come li butti pure, perché ti spacca anche il pavimento, cioè, devi stare un bel attento, un fumo da bui. Avanti Mario. Ehi, sento. E comunque, vabbè, ogni città cambia, hanno il loro meccanismo più, che si credono molto, magari vogliono più festeggiare, capito? È tutto casinottolo. Ma lì fanno una gara che fa più rumore, cioè da noi molte volte ti piacciono i fuochi d'artificio, vedere lo spettacolo, ma anche vincono chi fa lo scoppio più grande, lì ci sono, per dire, dei clan camorristici e cose del genere, non è che ci pensano due volte a mettere qualche candelotto, dici dove ti hanno frutti, prendono e attaccano, lì non c'è che li mancano le armi e la polvere da sparo. Ma dici che pure in Sicilia non vanno tanto per la quale. Noi diciamo Napoli, ma in chi vive una guerra a me? Come a te, sì. E certo, tutti questi paesi è una cosa, e poi vai invece nel Morese usano le armi, ogni tanto qualche cartello stradale te lo vedi bombardato, qualche lampione, qualche telecamera, cosa, orgosolo, alla fine il sindaco si è stancato di mettere i lampioni, ha detto basta, non li metto più, perché a Capodanno, ogni Capodanno ne buttavano a terra tutti i lampioni, è una cosa mai vista, tu la moto sei che non vai a orgosolo, se vai di lì ti rendi conto cosa sparano a pallettoni, ai lampioni, ai cartelli stradali, è quello che si muove, qualunque cosa che si può prendere sparano. Io devo parlarti su. Le telecamere di sorveglianza le hanno tutte disintegrate, non è arrivata una intera, hanno messo quelle blindate, quelle cose, eppure le hanno rotte lo stesso. Se tu entri il cartello Orgosolo, Rottelli, tutti spaventi, ci sono dei colpi, io non so a che distanza li abbiamo sparati perché ci passa il braccio dentro. Non ti vuole andare con chi si gozzi, che non ne campa nemmeno una. Le usano per esercitarci, le usano. Questi sono matti, a punire la roba in chi per Orgosolo. Oh, lascia perdere. Devi stare attenti, quel periodo lì devi stare molto ma molto attento, quando c'è quello corteso aperto, cose del genere, quando c'era un po' di alcol in giro, devi stare un bel attento, perché se no se fa uno sguardo strano, hai finito. Una due cartine hai bigliato in pieno, poi si divertono. C'è cartelli, di tutto. Immaginiamoci le telecamere, da lontano vi girano. Sei buono in protezione, ogni avvicinata a pallettoni. In chi vi trattano i cigosimi? Sì, adesso poi fanno a gara per chi ne faccia di più. Purtroppo ci sono le persone che non si rendono conto che stanno facendo danno al loro comune, perché se ne tu li la luce, che cazzo, toglie la luminosità al paese, diventa tutto buio. Alla fine ci dà cosa, è stancata, ha detto basta, non ne muovo più, non ne metto più la letta, ci siamo stancati, ogni anno noi dobbiamo rifare l'impianto di illuminazione del paese, sono centinaia di migliaia di euro che dobbiamo, e quando sparano non è che rompi una lampadina, ne stracci tutto quanto, la plafoniera, eccetera eccetera, sono assurdi, quando ne rompi una diecina hai già fatto un po' di migliaia di euro di danni, figurati poi te ne rompo. Vai Mario, tocca a te. Sì, è vero, però lì luce non ne vogliono perché si ammazzano più facilmente, hai capito? Perché lì in continuazione si prendono i nudi uno con l'altro, capito? E perciò se non c'è la luce è meglio per loro. Ma non hanno niente da perdere, poi guarda, io ho tanti amici di quelle zone lì, però mi hanno detto non è affutino, c'è gente che lavora dalla mattina alla sera, dice caso mi mettono dentro, anzi male non mi fanno, almeno non vado a tramare alle 4 del mattino per andare in campagna a lavorare, c'è gente parte alle 4 del mattino e torna alle 7 di sera, tutto l'anno, estate e inverno per il bestiame. C'era un amico che lavorava di lì in polizia a Furni, mi ha detto quello che vedeva, cose allucinanti, oppure se fai una contravvenzione per sbaglio, mamma mia, dice stai attento alla macchina, se tocchi qualcuno magari che non devi toccare di lì dentro, macchine bruciate, gomme strappate, sparate, eccetera eccetera. Io parlo anni fa, adesso non so se si è cambiato. Girate. Ma lì rischi la pelle, devi stare molto ma molto attento, infatti tu non so se l'hai mai visto, quando ci sono i posti di blocco, i carabinieri, la polizia, sono tutti giubbottati proiettile e con il mitra, non so come da noi, tranquilli, si avvicinano, mi favoriscono la parte, dico non si muova, rimanga di lì in macchina, non ti muovere, non fare movimenti, c'è subito il tipo con il mitraglietta pronto, perché di lì più di una volta hanno sparato i carabinieri, o la polizia. Sì, già lo so, dopo la di capo, no. Se ti conoscono che non li rompi le scatole ti danno il cuore, non sono neanche così cattivi, lasciamo vedere, già va bene, perfetta, sto guardando le stazionarie. No, io già ne ho amici di lì, sono generosissimi e poi se te li fai amici ti danno il cuore, però stai attento a non farli dei turchi, se no ti vengono a cercare, ti vengono qua a casa e te la fanno pagare, però ti danno il cuore, guarda, io ho conosciuto le persone generose, cioè vieni a casa mia, vieni qua, tu là, non ti preoccupare di niente, quando passi qua da me, gente anche è venuta in officina che poi mi riportano se devi fare qualche cortesia di qualche lavoro, non è niente, no, come non è niente? C'è un ripasso e ti portano regali, ti regalano per dire vino, formaggio, cose così ti portano, ma guai, poi dice quando vieni da me non ti preoccupa, era venuto uno da lontano, cazzo lo stesso, ed è ritornato, mi ha detto io ci passo, è venuto apposta a portarmi il regalo, perché gli avevamo aperto la macchina, era rimasta chiusa la macchina, era bloccata, non sapeva come fare, questo qua il portellone di dietro, che c'era tutta la roba dentro, gli abbiamo aperto, poi era contento, mi ha detto quando vengo qua ti porto, mi ha detto, non portare niente, non ti tu devi, sei mio coso, sono in debito con te. Sono così, sono, e poi si ricordano sempre di te, si ricordano sempre di te. Ok Bianco, vai, io vi saluto che devo andare a mangiare, che mia moglie ha fatto, ha preparato. Ok, ciao, ciao a tutti, ciao a te Roberto, Mario e a tutta la ruota, a tutti gli ascoltoni. E io adesso scendo a vedere, a mangiare, dai. Ciao, ciao. Ehi, grazie, ciao, buon appetito, a presto, ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio, ci sentiamo più tardi, c'è qui Ciro, ciao a tutti. Ehi, ciao Antonio, anche io tra poco chiudo, dai, sono andato un attimino, dai, ciao Claudio, buona carica, buon tutto, Anto, poi se coincide ci sentiamo un altro momento, a te Mario e poi farà girare per Claudio. Ehi, mi sa che adesso vi saluto anch'io però perché mi si sta stringendo il pancino. Mi sa che me ne vado anche io, ho un mal di schiena oggi, devo aver preso il colpo d'aria, sono tutto quanto a dolori. Va bene, dai, concludo anche io qua la conversazione. Ciao Mario, ben sentito, quando vuoi siamo qua, se coincide, buon proseguo di serata, avanti a te Claudio. No, io ero di passaggio, sono entrato per salutare, perché già ho saltato a quello fare, c'è roba a fuoco. Ok, ciao Roberto, ciao Mario, alla prossima, ci sentiamo, ciao ciao. Ehi, ciao, grazie, ancora a voi, a presto, ciao ciao.